è proprio una disposizione della Procura di Milano, è stato nominato un amministratore giudiziario che di fatto dovrà affiancare Fudigno, che è la società che gestisce la piattaforma di Glovo, come è conosciuta in tutta Italia, per impedire che tutta una serie di fenomeni di caporalato che si sono verificati sui rider, stimati in 2.000 sulla città di Milano e 40.000 su tutta Italia, possano riverificarsi in futuro. Questo provvedimento adesso è al vaglio di un GIP, ci vogliono una decina di giorni, quindi diciamo ovviamente non è tra virgolette definitivo, però si inserisce nel solco di un'attività sulla questione caporalato che la Procura di Milano porta avanti da 4-5 anni, sotto pandemia ci fu un caso simile su Uber Eats e ci fu anche un'indagine però di natura meramente fiscale su tutte le società del food delivery che avevano avuto un boom, come ricorderete poi particolarmente col Covid e la questione dei lockdown. All'interno insomma sono citate, la cosa un po' più innovativa che fa parte di questo filone è la corresponsione di paghe e retribuzioni che vengono definite incostituzionali perché in violazione dell'articolo 36 sulla retribuzione adeguata e proporzionata per garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla propria famiglia. Viene fatto un lunghissimo lavoro di analisi su queste migliaia di rider che sono tutte partite IVA o pagate a ritenuta d'acconto, e anche qua l'elemento un po' innovativo è l'utilizzo per il confronto della soglia di povertà dell'Istat oppure di quello che è l'assegno medio erogato per la NASPI, la disoccupazione, come metro di confronto rispetto a quanto viene pagato invece un lavoratore che presta il proprio servizio magari 10 ore al giorno. Incostituzionali, non garantiscono un'esistenza libera e dignitosa, questo non farebbe parte di un accidente che si è verificato in alcune casi, ma sarebbe un vero e proprio preciso modello di impresa, scelta di politica di impresa, e per questo motivo viene utilizzato questo strumento penale nel tentativo di regolarizzare la situazione. Si scrive dentro che si deve procedere alla regolarizzazione dei 40.000 rider su tutto il territorio nazionale, decine di loro sono stati anche sentiti e hanno raccontato diciamo quali erano le condizioni di lavoro, concentrandosi soprattutto sull'aspetto dell'app e dell'algoritmo che governa il ciclo di lavoro dei ciclofattorini. Viene evocato appunto il caporalato e lo sfruttamento anche per il fatto che molti di questi lavoratori erano in cosiddetto stato di bisogno, che è una prerogativa per la legge per appunto far scattare queste accuse. Esatto, è una prerogativa proprio prevista dal reato per far sì che possa sussistere. In queste vicende non è particolarmente difficile dimostrarlo per pubblici ministeri, inquirenti, investigatori, in questo caso l'indagine del Nucleo Ispettorato Lavoro dei Carabinieri di Milano, per la semplice ragione che parliamo innanzitutto di persone che sono tutte straniere. Le testimonianze sono tutte di rider Bangladesh, Pakistan, Nigeria e via dicendo. Condizioni alloggiative di condivisione con 3, 4, 5 persone, proprio perché legate diciamo allo stato di povertà e di indigenza, pure se di indigenza da lavoratori. Ovviamente sussiste il ricatto sui documenti, il permesso di soggiorno, no? La nostra normativa sull'immigrazione collega il permesso di soggiorno all'esercizio di un'attività lavorativa, a determinati criteri di reddito, e quindi anche lì la ricattabilità è forte. E questo perché è importante? Perché, come dire, la giustificazione di questi anni al fatto che questi lavoratori non vengano assunti con un contratto collettivo, non siano alle dipendenze di questi colossi, di queste multinazionali e via dicendo, è che quella è una libera professione e che quindi ognuno può decidere quando prestare il proprio servizio, qualche ora a settimana, magari per arrotondare su un secondo lavoro e via dicendo. Chiaramente non è così, emerge in maniera lapalissiana, ecco, dall'indagine. Questa non è l'unica pendenza giudiziaria di Glovo. Qualche settimana fa tu avevi dato conto anche di cause civili intentate da alcuni riders su questioni di inquadramenti e di contratti, giusto? Esatto, no, diciamo arriva un po' come, no, non voglio dire un pugno nell'occhio perché per chi segue queste vicende fatto è noto, però si pensava che dopo le iniziative penali della Procura di Milano di qualche anno fa queste società si fossero regolarizzate. 20 giorni prima, il 13 gennaio, 20 giorni fa, era emersa la testimonianza del general manager di Glovo per l'Italia all'interno di una causa di lavoro sempre intentata a Milano da 4 rider con la loro avvocata, e rispondendo la causa è per far riconoscere il rapporto di dipendenza o comunque di eterodirezione, come dice la norma, da parte di Glovo, e quindi farsi riconoscere il pagamento di le differenze sia retributive che contributive che non sono state versate. Per far ciò è fondamentale sapere che turni di lavoro questi specifici 4 rider che hanno intentato causa hanno fatto, tra l'altro su un periodo lungo, mi pare dal 2018 al 2025, insomma parliamo di 6-7 anni, quali turni di lavoro hanno effettuati. E il general manager di Glovo si è seduto al tribunale del lavoro come testimone sostanzialmente all'interno di questa causa e ha dichiarato che i turni di lavoro sono stati tutti cancellati a partire da maggio 2025 su suggerimento di quello che lui chiama garante della privacy interno alla società, che probabilmente è il responsabile del trattamento dati e protezione dei dati personali, come c'è in praticamente tutte le aziende. Ovviamente questa, insomma, è una cosa che lascia un po' così, no? Perché voi immaginate queste società che hanno fatto della memoria digitale la propria potenza, non fosse altro anche solo per conoscere gusti dei clienti, quali ordini vengono effettuati, in quale fasce orarie, in quale città, in quale zone della città e via discorrendo, che non hanno lo storico dei turni di lavoro dei fattorini. Peraltro questo, come dire, è rischioso anche per altri motivi. Cioè, voi pensate un rider che a un certo punto si trovasse accusato di aver commesso un omicidio da qualche parte in giro per Milano e volesse dimostrare la propria innocenza dicendo: guardate che in quel momento ero collegato all'app di Glovo e stavo svolgendo una consegna, com'è dimostrabile dal tracciamento GPS a 10 km di distanza, quindi che sarebbe, come dire, lo scagionerebbe. Ecco, se effettivamente questi turni fossero stati cancellati, ci sarebbe una lesione anche di aspetti che vanno ben oltre il diritto del lavoro in qualche modo. Nel provvedimento per il controllo giudiziario, diciamo, la firma è del PM Storari, che in realtà sta facendo, come dire, un lavoro intenso sul tema, appunto, dei diritti del lavoro in questi anni. Sì, è un sostituto della direzione distrettuale antimafia di Milano, che però dal sostanzialmente appunto 2020 in poi, forse il primo caso fu proprio Uber Eats, ha iniziato con una serie di fascicoli, dovremmo essere intorno ai 40-42 in questo momento, quindi in 5 anni come indagini, a affrontare il tema del lavoro povero sotto vari profili. Cioè, ci sono almeno 2-3 filoni differenti di queste indagini. Il primo è stato quello che è stato applicato al mondo in particolare della logistica, consegna pacchi, facchini, trasporto merci, ed è un filone fiscale. Cioè, quello che sostanzialmente è emerso è che in capo alle filiere dei grossissimi player del settore, Amazon, FedEx, BRT Bartolini, chi più ne ha più ne metta, insomma tutti i grossi marchi della logistica, dentro queste filiere ci sono una serie di società che forniscono la manodopera, che formalmente dovrebbero essere autonome, decidere loro come gestire le commesse. In realtà non lo sono, perché rispondono spesso, anche in questo caso, ad algoritmi che governano tutto: turni, premi di produzione, pause di lavoro e via dicendo. E gli algoritmi sono delle società committenti, quindi i giudici parlano di potere datoriale che viene esercitato dai committenti. E in secondo luogo sono società, queste in appalto, che tendono a fallire o ad andare in liquidazione o commettere numerosi illeciti fiscali e tributari con cadenza sostanzialmente biennale. Questo perché? Perché in questo modo sono in grado, sapendo in anticipo di frodare il fisco o di fallire, sono in grado di offrire sul mercato tariffe molto competitive ad Amazon, a FedEx e via dicendo, ogni qualvolta mettono a disposizione X centinaia o migliaia di lavoratori. Questo è un filone. Il secondo filone molto interessante è quello sui brand della moda e del Made in Italy. 5-6 provvedimenti di amministrazione giudiziaria, che è uno strumento nato e pensato per la criminalità organizzata mafiosa, dove i grandi brand, c'è stato Armani, c'è stato Dior, ce ne sono state altre, non sono direttamente indagate, ma, come dire, accusate di aver colposamente agevolato filiere di caporalato cinese lungo la propria catena di appalti. E infatti c'è un collegamento con Prato, giusto? C'è stato un collegamento con Prato, perché questo modello, ci sono delle pubblicazioni anche in diritto che parlano del metodo Storari ormai, è stato di recente applicato dalla procura di Prato sul brand Bella Italia, se ricordo bene, proprio chiedendo l'emissione, ottenendo l'emissione di una misura di prevenzione. L'ultimo caso, il più recente, è stato quello di Tots, che invece è indagata direttamente per caporalato, perché sarebbe emersa dalle indagini una consapevolezza del fatto di affidarsi a società fantasma sostanzialmente, cioè società con 3 dipendenti che dicevano di poter lavorare migliaia e migliaia di capi d'abbigliamento, scarpe e via dicendo. E quindi questo è il secondo filone. Il terzo filone è quello di cui abbiamo parlato e riguarda i salari al di sotto della soglia di povertà. Si è iniziato nel mondo della vigilanza, della security privata. Voi avete visto in questi anni le nostre città trabordare, no? Fuori dai negozi, dagli uffici, eccetera, di vigilanti privati, spesso non armati, ma anche armati. All'inizio, insomma, c'erano dei contratti che stabilivano paghe lorde orarie da 4,5-5 euro l'ora, che sono stati modificati dopo i primi commissariamenti, e quel filone però prosegue tuttora. Un paio di mesi fa ci sono stati altri provvedimenti, anche alla luce degli stipendi che erano già stati aumentati, diciamo, di qualche euro l'ora.